pari la uccido, tampa la vetà, li ti varo a me. Angel, angel, ira magna uccido, patti la vetà, tira caro a me. Io la nonna, nonna, nonna è, vetara, io di mucca è, u capitu, vetala ma, la masuke, ara angin, gongong vetai, ara omo, basa vetai, yamambiki, hati veta, begini e Jangan bikin hati betah.